Tiger, uno stato che non si trattiene. Mi piace la musica, avere gente presa bene. Ora devi fare parlare me, io ci metto succo e il ritmo sfora. Ora per fare ballare te, zitto, vedi come vado a picco. Ora mi sentisse corona, vorrebbe un fizzo di fisso, diventerei ricco. Ora devi fare parlare me, tu che fai successo averlo. Ora, ora, tu che vuoi parlino di te, e lo vuoi presto, anzi. Ora, ora, devi fare parlare me, tu che vuoi successo averlo. Ora, ora, tu che vuoi parlino di te, e lo vuoi presto, anzi. Ora, bella raga, qui mi chiedono di entrare, di dire quello da dire, di fare quello da fare. Quindi tu sei fuori, tu sei fuori, tu sei fuori, tu sei fuori. Io resto sempre in piedi come palloni, con mille complessi diretti dalle ambizioni. Oh oh, calma, disarmiamoci, coinvolgiamoci più spesso, anche solo per un pretesto, ma fallo onesto. Mi segui tu, ti segui il successo, non sai quante cose che ti sei perso. Scrivo facile così rimango impresso, oh, perché in altri modi non riesco. Ora, senti il tempo che vola, quasi 30 anni e la faccia di un bimbo fuori da scuola. Ora, è questo che ti ossessiona. Allora, c'è più di una cosa che non funziona. Ora, devi fare parlare me, tu che vuoi successo averlo. Ora, ora, tu che vuoi parlino di te, e lo vuoi presto, anzi. Ora, ora, devi fare parlare me, tu che vuoi successo averlo. Ora, ora, tu che vuoi parlino di te, e lo vuoi.